9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino torna a salutarvi e a ricordarvi che il tema che ci siamo dati oggi è un tema apparentemente tecnico, ma non vi spaventate, perché parlare della banda larga significa in realtà interrogarsi su quali siano le modalità, i tempi, chi deve finanziarlo, in che misura, una delle grandi infrastrutture del paese, perché avere una elevata capacità trasmissiva su il tipo di rete che collega i nostri computer, vedremo che dipende molto da appunto che tipo di rete usiamo, la possibilità di darci elevata velocità di trasmissione, e questo dipende naturalmente però anche da quanto si investe, ci può fare o meno un balzo nella tecnologia, non solo, ma soprattutto nella produttività per migliaia e migliaia di piccole imprese italiane che, fino a che non avranno questa elevata capacità trasmissiva, non riusciranno a realizzare quei balzi di produttività che nel sistema americano erano effettivamente quello che aumentava la produttività rispetto alla nostra. E ci interrogheremo insieme ai nostri ospiti, con la speranza che voi vogliate chiamarci per raccontarci la vostra esperienza e la vostra opinione. Chiamate al solito numero 800 24 00 24. Passo a presentare i nostri ospiti. Sono un po' tecnici, ma ripeto, ne parleremo in termini accessibili a tutti, perché questo è uno dei classici argomenti in cui gli acronimi, cioè le sigle incomprensibili solo per detti ai lavori, su il tipo di tecnologia, della capacità di trasmissione, della modalità di collegamento tra la vostra casa, la centralina sotto casa, la centralina più grande della Telecom e così via, ecco, questo è un linguaggio tecnico che tenteremo di evitare. Però insomma, ha la sua importanza capire queste cose. Allora passo a presentarvi i nostri interpreti di questo linguaggio incomprensibile. Abbiamo innanzitutto in studio Stefano Quintarelli. Buongiorno Quintarelli. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Quintarelli è dal punto di vista dei giornalisti che non sono addetti ai lavori o appassionati di tecnologia fino al primo momento un grande faro, nel senso che anima da molti anni oramai, bisogna dire da molti anni oramai, non vorrei che pensaste che fosse un vecchietto, ma non lo è per niente. Però è stato uno dei pionieri, insomma, dell'approfondimento di tutte le tematiche collegate a ciò che è stata la rivoluzione internet in Italia. Ancora oggi, attraverso il suo blog, per molti colleghi è possibile addentrarsi in questa materia, ed è stato anche uno dei pionieri dell'internet service providing oramai una quindicina di anni fa nel nostro paese. Poi abbiamo collegato al telefono Francesco Caio. Buongiorno Caio. Buongiorno. Ecco, Francesco Caio è uno dei più importanti manager a livello mondiale in questo settore ed è italiano, con nostra grande soddisfazione. Tra le tante cose strepitose che fa, dopo essere stato messo sotto contratto del governo britannico, che aveva bisogno anche lui di sapere come fare ad accelerare gli investimenti sulla banda larga, anche il governo italiano gli ha chiesto un esercizio analogo, un esercizio che lui ha consegnato in maniera riservata tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, tranne il fatto che poi internet ha fregato anche lui, perché se lo è trovato naturalmente pubblicato all'inizio di marzo. E noi ci interrogheremo proprio sulle tre direttrici di fondo che erano la conclusione del rapporto di Francesco Caio. Poi abbiamo Stefano Parisi, amministratore delegato di Fastweb. Buongiorno Parisi. Buongiorno. Ecco, Fastweb, lo ricordo a tutti voi, è il concorrente per quello che riguarda l'alternativa di infrastruttura di rete numero uno di Telecom in Italia. Anzi, la rete in fibra ottica per estensione e per capacità trasmissiva la più avanzata che ci sia in Europa, e rappresenta, per così dire, quindi un interlocutore obbligato di questo discorso, perché uno dei tanti ragionamenti di fondo è: c'è bisogno di un'alternativa di struttura, cioè dobbiamo realizzare una fibra che si affianchi nella maniera più estesa possibile l'attuale rete di Telecom, che ve lo ricordo è fatta di rame, e quindi per quanto si possano utilizzare tecnologie che comprimano il segnale e poi lo decomprimano passando sul rame, certamente la qualità e la capacità di trasmissione della fibra di rame non può eguagliare quella della fibra ottica. Che cosa bisogna fare? Ci dobbiamo accontentare per il momento di portare un internet che ancora manca al 12-15% degli italiani? Dobbiamo accontentarci di questo, e questo è il primo traguardo, oppure dobbiamo essere più ambiziosi? Dipende molto da chi paga e quanto fa. E la mia prima domanda a Francesco Caio Caio è. Caio, lei appunto alla fine del rapporto proponeva un rapporto, una conclusione per così dire a tappe. Intanto diceva, visto che ci interroghiamo qua su chi deve finanziare, quanto costa, eccetera, eccetera, pensiamo all'obiettivo più vicino, quello di recuperare il cosiddetto digital divide, gergo tecnico, cioè lo svantaggio tecnologico di chi internet non ce l'ha ancora. E quindi quantificava questo 12% degli italiani a cui garantire almeno 2 mega. La mia obiezione è che con 2 mega, che poi sono teorici, non ci si fa quasi niente, però iniziamo a ragionare da questo obiettivo. Oppure questo obiettivo lei lo dava semplicemente perché gli interessa, diciamo così, il bersaglio grosso, e però procedeva per step perché Telecom molto indebitata non si preoccupasse troppo, per così dire. Scusi la domanda, ma io ricordo a chi sta a casa che naturalmente non dobbiamo fare solo ragionamenti tecnici. Le telecomunicazioni italiane sono nella situazione in cui stanno, ci sono 35-38 miliardi di euro di debiti sulle spalle di Telecom, 45 miliardi di euro di avviamento di Telecom, insomma tutto questo non è che proprio avvantaggi per mettere mano a investimenti di questo tipo. Mi taccio, ho parlato troppo. Caio, ci faccia capire questo suo approccio multistadio, se mira al bersaglio grosso o intanto dobbiamo andare piano, sani e lontani. Allora inizierei con una riflessione tipo generale, non tecnica, e che cioè in Italia giorno più giorno meno 20 milioni di persone usano internet, perché di questo stiamo parlando, cioè di una tecnologia che serve per mettere in contatto persone, famiglie, imprese con dei servizi che stanno diventando sempre più rilevanti, ed è il motivo per cui, insieme al fatto che costa moltissimo costruire l'infrastruttura, i governi in tutto il mondo se ne stanno interessando. Allora la sua domanda è: bisogna puntare al digital divide o al colpo grosso? Si tratta secondo me di fare un po' un disegno a tutto tondo e interrogarsi da un punto di vista del governo se occorra o meno intervenire o se lasciamo fare al mercato. Questa è di fatto la domanda chiave che i governi si pongono in questo momento. Allora, la conclusione del rapporto italiano dice: sulla base dei dati che ci sono è chiarissimo che sarà molto difficile che il capitale privato, i gestori privati, vadano a investire nelle zone geografiche più remote e a più bassa densità della penisola. E quindi è ipotizzabile e auspicabile che se ci sarà intervento pubblico la priorità sia lì, perché si rischia altrimenti di avere un paese a due velocità con una comunità di circa 20 milioni o anche un po' di più che possa avere accesso a questi servizi e altre persone che ce l'hanno a un livello insufficiente. Allora, siccome poi si parla anche di governo elettronico, di e-government, delle iniziative del ministro Brunetta, la pubblica amministrazione non potrà mai essere completamente digitale se esistono delle zone dove la popolazione non può accedere a questi servizi. Quindi, primo, la priorità è assicurare che ci siano delle infrastrutture tali per cui tutti abbiano un servizio minimo. Non è affatto detto che poi ci sia solo la fibra per arrivare in queste zone, infatti anzi la raccomandazione che emerge è: iniziamo con l'utilizzare il portafoglio di tecnologie che ci sono, radio, satellite, Hyperlan e quant'altro c'è, per far sì che ci siano tutti i cittadini si possano essere messi nella possibilità di collegarsi, e questo è secondo me un primo step. Poi se vuole andiamo più in dettaglio sui 2 mega, servono non sono. Però ripeto, siccome il tema di fondo che i governi si pongono è: dobbiamo lasciar fare il mercato o interveniamo noi, sul tema del digital divide, cioè sulle zone a bassa densità, si può già tranquillamente dire che o c'è un meccanismo di finanziamento pubblico o è molto difficile ipotizzare che quelle zone saranno coperte. E qui ci fermiamo e vediamo con dove andare. Sì, però io continuo a dire: qui ci fermiamo, ma questa non è la vera sfida della produttività, perché il problema è quello di dare una grande capacità alle imprese soprattutto. Io capisco che il primo obiettivo è quello di consentire a quelli che oggi non sono minimamente coperti di accedere al discorso di un internet a medio, poco più che medio, basso, capacità di trasmissione. Iniziamo con alcuni ascoltatori subito. Gianni da Viterbo, prego Gianni. Sì, buongiorno. Prego. Noi siamo una piccola struttura commerciale e stiamo a 25 km da Roma, tra Roma e Viterbo, e non abbiamo nessun tipo di copertura, non abbiamo la DSL, non abbiamo la copertura aerea, con le classiche pennette non riusciamo neppure a collegarci, a entrare nei siti, ma non stiamo in una zona remota d'Italia come si diceva prima, siamo vicinissimi alla capitale, Pensate che davanti a noi, davanti alla nostra struttura commerciale, passa la fibra ottica e non riusciamo ad avere un collegamento. Questo nel 2009. Benissimo, è molto chiaro quello che ha detto. Infatti, secondo me il vero problema è appunto delle imprese come la sua. Stefano da Torino, prego Stefano. Buongiorno, io sarò un pochettino critico, nel senso che c'è un problema in più, non è solo un problema di banda larga, è un problema di informatica. Io usavo internet con un modem a 14,4 baud, sì, quindi preistoria, certo, rispetto a quella alla banda larga. Recuperavo informazioni che mi servivano, nello stesso tempo con la DSL a 10 mega. Perché? Perché una volta i siti erano essenziali, informazioni, punto. Oggi, per poter aprire lo stesso sito, impiego lo stesso, ancorché la banda sia n volte più rapida, impiego lo stesso tempo perché ho animazioni, pop-up, immagini, filmati e quant'altro. Ma è lei cosa fa? Rimpiange l'archeologia proto-industriale dell'epoca iniziale? No. Il problema è un altro. Il problema è che l'informatica, purtroppo, è la quintessenza del consumismo. Il signor Bill Gates, bravissimo, ha fatto un patto scellerato dove costantemente satura la capacità del computer. Grazie Stefano, ma però adesso lei ci porta alla filosofia dell'ermeneutica tecnologica, perché lei mi pare di capire che è teorico di una specie di la via francescana alle tecnologie e all'architettura di sistema. È comunque molto affascinante, ma prima di decidere se vogliamo essere edonisti o francescani, il problema è che dobbiamo avercela questa architettura di sistema che funzioni. Parisi, allora, sul primo step, quello di tentare di colmare il divario concentrando lì le energie pubbliche, significa per esempio iniziative enti locali eccetera eccetera, più o meno ci siamo, diciamo che è un impegno di investimento non troppo elevato, nel senso che il rapporto CAIA parlo di un miliardo e due, un miliardo e quattro, una cosa di questo genere, insomma si può immaginare. Ma invece per gli step successivi, per quello, per rispondere al problema della piccola impresa fuori Roma che dice io qui sono all'epoca analogica, anzi a malapena, e non riesco a fare niente, non c'ho né il wifi né la pennetta e neanche col mobile riesco a scaricare nulla. Ecco, lì per arrivare a quello il governo ci vuole una soluzione per cui il regolatore di sistema dice prendiamo la rete di Telecom e prendiamo la sua rete di Fastweb, ve le leviamo di pancia tutte e due, le mettiamo insieme, come funziona? Andiamo un pochino più, ecco, nel merito. No, il problema dell'azienda tra Vieti e Roma è un problema di digital divide, ancorché collocato in modo singolare, c'è anche del digital divide, cioè persone che non sono in grado di accedere in qualità di internet anche al centro di alcune città italiane per via del degrado della qualità del rame di Telecom Italia. Il problema dal punto di vista tecnico, scusate, è che con la DSL se l'abitazione o l'impresa è a più di 2 chilometri e mezzo dalla centrale di Telecom Italia, la DSL, la banda degrada e non è possibile dare nessun servizio. In quel caso non sarà nessuna rete che può raggiungere e dare quei servizi, nessuna rete fissa, dovranno essere o reti mobili o appunto le tecnologie che citava prima Francesco Caio. Ed è molto importante dire che nel 2010 ci sarà fra poco un satellite lanciato da Eutelsat solo per i dati, solo per la banda larga, che darà una copertura totale in qualunque zona del paese, e questo credo che sarà il principale contributo al digital divide, a mio avviso. E ovviamente per far questo bisognerà fare sicuramente delle risorse pubbliche, ma credo che più dal punto di vista degli investimenti dovrà essere finanziata più che altro la domanda, più che l'offerta, credo in un'ipotesi di questo tipo. Ma insomma, tornando però al tema principale, credo che l'obiettivo numero uno, quello che lei chiamava il colpo grosso, sia inevitabile, cioè dobbiamo assolutamente raggiungerlo. È parallelo alla questione del digital divide, non sono alternativi. Pensare che nel 2012 noi dovessimo avere 2 mega per tutti vorrebbe dire che nel 2012 saremmo l'ultimo paese europeo dal punto di vista della tecnologia offerta sul territorio nazionale, quindi è evidente che dobbiamo porci anche l'altro grande obiettivo contemporaneamente. Perché questo? Perché appunto, come diceva l'ascoltatore di Torino, sempre di più i collegamenti sono fatti di immagini, video, di pubblicità, di contenuti che sono sempre più ricchi. Ormai la cosa più importante che sta succedendo proprio in questo periodo sono le grandi aziende di internet come Google, ma adesso stanno arrivando anche, piano piano stanno arrivando, già l'ha fatto la BBC, lo stanno facendo anche aziende broadcasting di televisione, stanno facendo servizi, vanno direttamente sul cliente fornendo servizi di contenuti video di grande qualità per i quali serve la banda. E allora ci sarà fra poco, da qui a poco, una domanda di banda molto più emergente di quella che vediamo adesso, molto più stringente di quella che vediamo adesso, per cui fra poco non basteranno neanche i 20 mega che oggi siamo in grado di dare. E allora a quel punto un investimento per il futuro va fatto, e l'investimento per il futuro bisognerà organizzare le risorse sul paese per farlo. È evidente che non potrà essere finanziato dallo Stato, non siamo né il Giappone né nell'Australia, nella Corea, che hanno fatto finanziamenti enormi per fare questi investimenti, il nostro debito pubblico non ce lo consente, ma in Europa non ce lo consentirebbero neanche le regole europee, e quindi bisogna fare un business plan, capire un business plan paese, consentitemi, capire quali sono i vantaggi e i ricavi che possono arrivare da un investimento di questo tipo, trovare i suoi ritorni, e noi crediamo che dalle analisi che abbiamo fatto la possibilità, se c'è una cooperazione tra i vari operatori nello sviluppare questa rete, credo che si possa arrivare a raggiungere un obiettivo importante. Diego da Torino si porta la sua voce. Prego Diego. Diego da Pavia, non da Torino. Ah no, ho ascoltato male allora nel registrare la sua cosa. Poi per farmi contento, essendo torinese, dicono che sono tutti di Torino, invece no, si sbagliano ovviamente. Prego Diego. Grazie. Niente, io volevo portare l'esperienza che abbiamo avuto nella nostra zona dell'Oltrepò Pavese. L'Oltrepò Pavese non è completamente coperto da banda larga, e noi come piccola azienda di servizi informatici che si rivolge alle piccole e medie imprese, per operare nella nostra zona abbiamo bisogno assolutamente di questi strumenti. Per questo abbiamo stretto accordi commerciali con una grossa azienda del nord Italia che si occupa della diffusione della banda larga via wireless, quindi installa delle antenne in punti particolari della zona, e tramite delle altre antennine installate sulle case, sui capannoni o quant'altro, diffondere la banda larga. Soddisfatti? Siamo molto soddisfatti nelle zone in cui siamo riusciti a, in collaborazione con questa azienda, a installare le antenne, quindi a coprire. Chi ha detto di no? Purtroppo in alcune zone, soprattutto nella parte collinare, non siamo riusciti a portare il servizio, abbiamo trovato tantissime resistenze da parte di un po' di amministrazioni comunali che avevano ad esempio stretto accordi con altre società e che avevano vinto bandi di gara, non portato il servizio effettivamente, perché poi quello che conta è che il servizio funzioni. Quindi c'è un problema, ecco Diego, senza entrare troppo nello specifico, c'è un problema quindi sulle tecnologie wireless o di questo tipo, di amministrazioni comunali che a volte non coprono, ma non hanno le idee chiare, insomma, nell'identificare chi è il miglior soggetto per portare la miglior capacità trasmissiva per integrare le insufficienti di rete. Punto numero uno. Stefano da Trento, ci dica. Buongiorno, dottor Giannino. Devo invitare a essere rapidi perché abbiamo oggi. Certamente, io credo che parte del ritardo che abbiamo a livello tecnologico sulla larghezza di banda sia dovuta essenzialmente al fatto che nella privatizzazione di Telecom la rete è stata data in gestione a loro, e chiaramente investimenti sulla rete, che è assolutamente obsoleta, non ne sono stati fatti. Non so se sbaglio nel dire questo. Non lo so, ma andiamo avanti. Questo vediamo, perché io preferisco guardare oramai al futuro piuttosto che fare polemiche sul passato, perché non ci risolviamo niente. Sono perfettamente d'accordo. Io sono, come ha notato, ho richiamato l'entità dei debiti e degli avviamenti di Telecom, che sono un problema grosso, perché è inutile illudersi. Le banche azioniste di Telecom ci vogliono sapere per filo e per segno come si procede. Il fatto sta che Telecom comunque anche nel 2009 e 2010 sta rallentando gli investimenti rispetto a quello che aveva detto l'anno fa. Però chiusa parentesi, la comunicazione è un asset molto importante per uno Stato, e come tale dovrebbe essere gestito a livello statale, proprio perché ha la capacità di poter mettere nella rete soldi. Lei pensa che lo Stato non abbia legato questa grande capacità in Italia? Io le faccio un esempio molto banale. Sì. Domenica sono andato a Costamagna, che è nelle Langhe, un bel posto peraltro. Trovo incredibile che non ci sia la DSL. incredibile, lo trovo. Cioè, lei capisce che questo è fortemente limitante. Ma si figuri, ma il problema è che lei dice: leviamo la rete da Telecom, quindi diciamo un esproprio che poi ci metteremo d'accordo con le banche su quanto bisogna dargli. E io, guardi, su questo piuttosto mi faccio sparare, piuttosto che dare miliardi di euro alle banche attualmente azioniste di Telecom. Perché guardi, di lì si passa. Se posso essere esplicito, il dibattito che ho visto nei grandi giornali dell'ultimo anno e mezzo, spesso quando parlava di grandi interventi alla giapponese, cioè grandi risorse pubbliche, quindi leviamo la rete fissa da Telecom, ipotizzava un grande meccanismo risolvi debito agli attuali azionisti, cioè ricoprire le banche di molti miliardi di euro in nome del fatto che poi lo Stato, riprendendo la rete e magari facendo lo stesso con Fastweb, aveva poi questa grande capacità di accelerare gli investimenti. Le invito a riflettere sulle condizioni del nostro bilancio pubblico e se questo non mascheri invece il fatto che si tratti soprattutto di risolvere il problema degli attuali azionisti di Telecom Italia, e questo se la devono vedere loro, perché oggi noi non stiamo parlando di questo. E comunque la ringrazio perché ci ha consentito di fare un passo avanti verso il punto più delicato della nostra trasmissione. Eccoci tornati in studio, ancora un ascoltatore e poi dobbiamo far parlare molto di più i nostri ospiti. Fabrizio da Milano, prego. È da Milano, lei, mi dicono che è da Milano, non è da Milano. È sì, da Milano, sono a Milano, io abito fra Milano e Verona. Allora, buongiorno. Dica, Fabrizio. Volevo tornare sul problema appunto del principale, cioè la struttura della rete italiana. Siamo legati a Telecom, c'è l'alternativa Fastweb. Tutti gli altri operatori che comunque fanno l'unbundling della rete Telecom sono comunque strettamente legati alle cabine Telecom. Sì. Io non so effettivamente quale sia la soluzione, se levare la rete a Telecom, sicuramente non darla alle banche, però magari trovare delle soluzioni alternative, cioè che lo Stato intervenga per garantire un qualcosa di minimo, perché appunto effettivamente un sacco di comuni in Italia, anche relativamente medi, non hanno un accesso veloce. Questo nel 2010 è veramente improponibile, secondo me. Adesso non so, secondo lei cosa bisognerebbe fare per risolvere questo problema? Va bene, Fabrizio, tentiamo di distinguere, perché un conto è, c'ho un ritorno in cuffia, un conto è disciplinare al meglio, si è tentato di farlo in questi anni con un acceso dibattito su quali fossero le formule per consentire l'accesso universale in condizioni di parità, di offerte commerciali eccetera eccetera, alla rete esistente, al backbone, cioè alla spina dorsale della rete distribuzione e trasmissione del segnale di Telecom, e poi alle periferiche, cioè dalle mille più centrali di rete, di snodo eccetera, fino poi alle centraline sotto casa. E quello, oggi non parliamo di quello, cioè noi non stiamo parlando della cosiddetta formula open access e di tutta l'importanza di disciplinare con tariffe commerciali sia nelle offerte wholesale sia nelle offerte retail, che impediscano all'ex monopolista detentore della rete di svantaggiare i concorrenti nell'accesso alla rete. Noi oggi guardiamo più avanti, cioè tentiamo di capire chi deve mettere i soldi, quali soggetti istituzionali coinvolgere, se fare interventi anche sulla proprietà delle attuali strutture, cioè quella la rete di rame Telecom e di fibra di Fastweb, se immaginare invece una logica diversa per la quale questa architettura di rete comporta anche una mentalità meno rigida, per cui bisogna fare appello insieme a enti locali, soggetti alternativi, ciascuno si tiene le sue reti attuali, ma convergono tutti verso un modello di business che insieme è costruito e concepito con le tariffe, per esempio, per finanziare tutti insieme questo investimento, ciascuno per il suo, ecco, e con un regolatore che poi abbia la cabina di regia in mano per consentire a tutti di potervi accedere senza essere scompensati. Caio, allora, nel fare questo punto, passo in avanti verso il punto delicato sulle proprietà delle reti e sull'architettura di reti per coinvolgere il massimo delle risorse necessarie, lei che dice? Perché poi il suo punto di fondo era dare alternative diverse per risolvere questo problema nel rapporto di pochi si fa. Partirei da quello che diceva prima Stefano Parisi: se siamo tutti convinti, come dovremmo esserlo come paese e come Europa, che questa non è un'infrastruttura opzionale, qui stiamo parlando dell'elettricità del XXI secolo, allora farei appello a questo e dire: guardate che le reti oggi si costruiscono in modo diverso da come si sono costruite o da come le hanno costruite i nostri nonni col rame, e che cioè un singolo soggetto aveva l'obiettivo di comprare i terreni, scavare le cavaline, mettere la fibra, accendere il rame e vendere i servizi. oggi queste cose si possono fare in stadi diversi, con attori diversi, in località diversi. Valga per tutti il modello scandinavo, dove a livello locale le utilities, cioè quelli dell'acqua e dell'elettricità, hanno messo a disposizione i loro cavidotti per terze persone che hanno messo la fibra e hanno aperto la rete ai gestori di servizi. Quello che secondo me è la vera sfida della banda larga, al di là delle tecnologie, è la capacità che i paesi dovranno dimostrare di fare sistema intorno a un progetto. E questa è secondo me maggiormente una sfida per l'Italia. Paese di grandi individualità, di grandissime competenze, questo lo vorrei sottolineare, in questo settore, tradizionalmente orientati allo sviluppo, all'innovazione. Abbiamo oggi al telefono due rappresentanti degnissimi di questa innovazione, da una parte gli Internet Service Provider, dall'altra Fastweb, come diceva giustamente lei, è ancora la rete in fibra più estesa in Europa. Ma quando si tratta di far sistema casca l'asino. La vera sfida che l'Italia ha su questa infrastruttura è la capacità di trovare un luogo, può essere l'autorità, può essere il governo, può essere un'associazione di gestori, per avere un progetto unico e unificante. E questa è secondo me la sfida. Quintarelli, da questo punto di vista, quale può essere questo soggetto, questo luogo, anzi? Immaginiamo un'architettura che sia flessibile e capace di dare soluzioni con la stessa rapidità e capacità di mutazione e di adeguarsi al problema del mezzo di cui stiamo parlando, mentre invece dice Caio, piantiamola lì di pensare con lo sguardo rivolto al passato. Sì, senz'altro bisogna smettere di guardare rivolte al passato e pensare a un modello di sviluppo che non guardi agli anni 60 ma che guardi al futuro. Credo che un ruolo importante in un contesto di cabina di regia di questo genere lo debba avere sicuramente l'autorità delle comunicazioni. Tra l'altro il presidente Calabrò nell'ultima relazione annuale al Parlamento si candidava proprio a fare questo, perché vede, ma io la devo interrompere perché c'è una cosa che non capisco, spieghiamo. Sì. A caso, sono io che non capisco o ho visto numerose decisioni dell'autorità che pure si candidava nella relazione che ha tenuto poche settimane fa, ho visto molte recenti decisioni dell'autorità nel punto delicato di regolamentare per esempio le tariffe di terminazione quando si passa tra fisso e mobile, tra operatori diversi eccetera eccetera. Io continuo a vedere ultimamente decisioni nell'anno scorso e così via che continuano a premiare l'ammortamento della rete fissa di Telecom Italia. Io non so se quelle decisioni vengano prese pensando al fatto che la povera Telecom Italia, con i debiti che ha, bisogna continuare a dargli una mano, oppure quello va in decisione opposta rispetto a quello che dice lei, perché quella è una struttura iperammortizzata da decenni e bisogna continuare a remunerarlo, o bisogna nelle tariffe, per esempio, nelle tariffe, quando si tratta di passaggi tra soggetti diversi, bisogna volgere le tariffe a finanziare al meglio quelli che ce l'hanno migliore la rete? Piccola domanda, perché su questo l'autorità... Io credo, sì, è certamente decisiva. La storia ci ha portato che gli utenti della rete telefonica fissa, quando chiamano, pagano molto verso il cellulare, e quindi di fatto questo è uno spostamento di risorse dalla rete fissa verso la rete mobile, che quindi ha a disposizione risorse per poter fare innovazione. Questo è uno schema che in qualche misura è stato usato anche per finanziare sviluppi di rete fissa, però è uno schema che guarda di nuovo al passato, perché pensa alle telefonate. Le telefonate oggi, una volta era un filo che prendeva un percorso dalla casa dell'utente chiamante fino al destinatario, oggi sono sequenze di bit, di numerini, che viaggiano sulla rete in pacchettini e ciascuno prende una strada diversa. Cioè è una telefonata oggi non è nulla di diverso che una mail, che un documento mandato via rete, dal punto di vista della rete. Per cui anche il meccanismo delle tariffe di terminazione è qualcosa che ha le gambe corte, cioè pensare di basare lo sviluppo dei prossimi anni su un meccanismo di terminazione chiaramente è coerente con il modello economico delle aziende che ci sono adesso, però non è sufficiente a mio avviso nel medio e lungo periodo per determinare modalità economiche con cui si può sviluppare una rete di nuova generazione. E quindi questo nuovo... Lei cosa pensa? Pensa che riusciamo a organizzare una cooperazione tra soggetti privati diversi con l'autorità che fa la cabina di regia sulle tariffe, sulle modalità di accesso, di organizzazione di questi livelli diversi di compenetrazione? Si riesce finalmente a organizzare un modello così armonico e cooperativo in un paese in cui invece di solito, se non si stabilisce prima chi comanda, non si fa un passo? Temo che alla fine sarà inevitabile doversi mettere d'accordo. Volevo solamente citare una cosa. La produttività Nello studio di Digital Britain, la produttività delle persone che si occupano di ICT, cioè delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è il 50% più alta del resto dell'economia. Per sostenere le nostre finanze pubbliche abbiamo bisogno di puntare sull'informatica, non lo dico io, lo dice il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia. Necessariamente dobbiamo aumentare la produttività, cioè, e ciò passa attraverso lo sviluppo di una rete di nuova generazione. Abbiamo bisogno di guardare non agli anni 60 ma al futuro. Sicuramente dovremo metterci d'accordo, perché i problemi che ci sono sulla strada sono enormi e come mettersi d'accordo bene, probabilmente attraverso una cabina di regia ci dell'autorità. Picchia, ma voglio dire, ma voi della frontiera della nuova generazione siete più diplomatici dei democristiani della Prima Repubblica. Parisi, l'ho chiamata più spesso in causa, avrà capito, mi aspetto altrettanta diplomazia, però facciamo capire a casa, davvero siamo alle soglie di questa nuova straordinaria cooperazione tra concorrenti? Dunque, ci sono delle possibilità di cooperazione. Noi abbiamo fatto ad esempio un accordo di network sharing, cioè di condivisione della rete con Telecom Italia. La differenza importante con le reti mobili, la rete fissa, che la rete fissa in fibra, cioè la rete nuova generazione che raggiungerà la fibra per tutti gli italiani, non possono essere in concorrenza, ce ne può essere una sola. Allora bisogna trovare la concorrenza negli investimenti e nelle modalità di uso di questa rete. Quindi effettivamente noi abbiamo preso le nostre canaline, che raggiungono appunto, come si diceva, che è la più grande rete europea in fibra, e le abbiamo aperte a Telecom Italia, la quale potrà mettere la sua fibra dentro le stesse canaline, e quindi facendo molta efficienza. E un domani, quando Telecom Italia farà i suoi investimenti, darà a noi le sue canaline per poter allargare la nostra rete. Quindi questo modello, che è il più avanzato d'Europa, che abbiamo inventato in Italia e che stiamo facendo, può essere un pezzo del modello. Il resto era quello che diceva Francesco Caio, però credo che sia molto importante sottolineare l'aspetto del quadro regolatorio che lei toccava poc'anzi. In Italia sono stato troppo cattivo? No, lei è stato troppo morbido, adesso lo faccio, faccio io il non democristiano. Faccio quello politicamente scorretto. Esatto. In Italia noi abbiamo una struttura di tariffe di terminazione che premiano in maniera inaudita, in maniera incredibile, la rete mobile, perché quando una telefonata nostra finisce su una rete mobile, l'operatore mobile che detiene la rete che ha costruito incassa una cifra che può andare, a seconda di che operatore è, a seconda se è Telecom, Vodafone o Wind e H3G, che è una cifra che va dai 6 euro ai 16 euro, mi pare, di H3G. Allora, euro cent, scusate al minuto. Quando invece una telefonata termina su una rete fissa di Telecom Italia o di Fastweb, siamo una cosa intorno allo 0,05 per Telecom Italia e 0,2 per... anzi, adesso ormai è 0,1 per Fastweb, perché si sta riducendo. Cioè c'è un'operazione evidente, europea, ma in Italia più accentuata, di un enorme premio dato agli operatori di rete mobile, che come vedete fanno pochi investimenti, la qualità della rete mobile si sta degradando perché la quantità dei dati che arrivano con le chiavette è enorme e la qualità degrada, quando invece la grande montagna di investimenti è sulla rete fissa, e su questo non c'è tariffa di terminazione, siamo lontanissimi. In più, oltre a questo, l'autorità di recente ha premiato, aumentando il valore del rame, cioè quindi Telecom Italia adesso guadagna di più quando affitta il rame, e quindi ovviamente Telecom Italia non è così incentivata a lasciare il rame per mettere la fibra. Allora, il problema è che bisognerebbe coordinare, diciamo così, quello che sono le intenzioni dichiarate con quella che è l'operatività normale di un'attività di regolazione. E allora bisognerebbe fare in modo che, se si vuole veramente costruire, come si dice negli interventi, negli impegni, una rete di nuova generazione, bisogna avere un quadro regolatorio che la sostiene, perché non servono soldi pubblici per le telecomunicazioni tramite il digital divide, non servono soldi pubblici, si può fare col mercato, se però il mercato è regolato in modo intelligente. Se invece io do moltissimi soldi a un operatore come Vodafone, che con quei soldi, che ha una generazione di cassa enorme fatta dal mobile, con quei soldi entra nella rete fissa, cioè entra nel servizio di rete fissa, facendo un'impegnativa campagna pubblicitaria che sta sopra i 100 milioni l'anno, cioè una campagna pubblicitaria enorme, offrendo un servizio di bassissima qualità, senza fare investimenti e utilizzando in maniera soltanto in tecnologia bitstream, quindi in tecnologia prevalentemente wholesale, la rete di Telecom Italia, non abbiamo stimolato proprio nulla, non abbiamo stimolato nulla perché abbiamo soltanto generato pochi investimenti, grandi vantaggi economici, ma alla fine non abbiamo risolto quel problema lì, cioè quello di dotare l'Italia. Voglio dire soltanto che si possono fare le politiche industriali moderne, si possono fare senza soldi pubblici se si fa una regolazione intelligente. Se invece si fa una regolazione di favore per un operatore piuttosto che per l'altro, si faranno grandi favori ma non si faranno investimenti. Oh, io ringrazio Parisi perché mi ha restituito l'impressione di non essere così matto nel giudicare quantomeno un po' incoerente le parole ricche di speranza del regolatore rispetto alle decisioni concrete che assume sulle tariffe. Eccoci tornati in studio. Caio, nel suo rapporto, nella parte finale del suo rapporto, si evocava poi anche le esperienze concrete di altri grandi paesi europei che su questo offrono dei modelli, hanno delle specificità, dei modelli che naturalmente risentono di come in quei paesi si è sviluppato il mercato, quali sono i loro operatori di punta e i suoi modelli di business, e quindi si tratta di riflettere se guardare qua, se guardare là o se ogni paese fa storia a sé. Lei pensa che per esempio ci siano esperienze come quelle olandese? L'olandese è un paese che ha sperimentato più concorrenza, al vecchio incumbent c'era il cavo, cosa che noi non abbiamo da sempre diffuso, stiamo parlando ovviamente di un piccolo paese perché poi l'orografia e l'estensione conta, e che insieme attualmente sta proponendo un modello di investimento, di rete avanzata, capace in qualche maniera di aggirare e passare il problema dell'incumbent o meno. Ma cito l'Olanda perché è uno dei diversi modelli. Oppure c'è un modello italiano che ci aspetta? Lei che dice? Penso che ci siano tanti modelli quanti paesi. Mi sembra che la cosa in comune sia il punto di destinazione. Cioè essere certi che il paese sia dotato di una rete ad alta velocità in fibra ottica. Siccome i punti di partenza sono figli di storie diverse, i percorsi saranno diversi. E dobbiamo fare anche attenzione noi italiani a innamorarci del modello del vicino, abbiamo tutte le capacità e competenze per farne uno nostro. Penso che, come si diceva prima, sia però importante tradurre in azioni, magari anche piccole, il fatto che in questo punto di arrivo ci si creda. Faccio un esempio che confronta un po' l'Italia con l'Inghilterra, sono i mercati e i governi con cui ho lavorato più da vicino. Proprio oggi, o penso ieri anzi, l'Ofcom, il regolatore inglese, ha pubblicato uno studio dettagliato sulla reale qualità di banda offerta dai vari service providers inglesi. Perché come sappiamo sulla scatola c'è sempre scritto fino a 20 o fino a 8, la realtà è diversa in funzione di tante variabili. Questo meccanismo, la trasparenza sull'informazione della reale qualità, può, nel suo piccolo, perché costa veramente poco farlo, aiutare il mercato in modo sostanziale, perché inizia a spostare il dibattito da tutto gratis a una differenziazione qualità-prezzo. Allora, noi l'anno scorso abbiamo lanciato nell'ambito del governo inglese questa iniziativa, era a settembre, siamo a luglio, lo studio è completato, è partita una procedura. In Italia uno simile ragionamento è stato fatto a ottobre-novembre, spero vivamente che fra due mesi avremo la stessa cosa. Può sembrare banale, ma la capacità di un paese di andare su questa strada passa attraverso la volontà e la capacità di realizzare questi passi. Poi non ci deve essere nessun gestore che dice: ah no, ma la misura è sbagliata perché il mio lava più bianco del tuo. No, si è coscienti di una direzione e l'authority, faccia lo Stato, faccia il regolatore e vada dritta per la sua strada. E in altre parole, l'obiettivo, l'opzione 1, cioè quello di portare l'Italia a una posizione di leadership europea, che significava la copertura con un'architettura di fibra avanzata ma di almeno 100 città italiane, avrebbe bisogno di una fortissima rapidità di decisione di questo tipo. Io, a dire la verità, sono un po' scettico che noi riusciamo addirittura a centrare anche solo l'opzione 2, cioè quella per non entrare in Europa, coprirne 40-50 di città italiane di qui al 2015-2016, e temo che ci accontenteremo del terzo, cioè di coprire 10-15 città, però posso sbagliare naturalmente. Abbiamo Achille dalla provincia di Massa, prego Achille. Buongiorno, salve. Ci dica. Niente, io volevo ricollegarmi all'intervento di prima sul come fare questo, come risolvere il digital divide, soprattutto negli interventi che vanno ad aiutare diciamo realtà commerciali, perché io chiamo dalla provincia di Massa Carrara, ho una società di servizi wireless in Iperlan service provider, e abbiamo quasi una clientela di 1000 utenze nella provincia di Massa Carrara, a nord della Toscana, e la più grande battaglia noi la stiamo conducendo contro la nostra stessa regione, che ha promosso un bando giustamente per combattere il digital divide, purtroppo però ha lasciato alcune zone oscure in questo bando che vanno a penalizzare le realtà come la nostra. Cioè, quando parla di zone oscure si riferisce a? Mi riferisco al fatto che purtroppo questo intervento del bando è programmato senza considerare quello che era qui e il servizio che stiamo dando, perché da come si stanno delineando le cose di questa assegnazione del bando, verrà una società che tra l'altro userà la nostra stessa tecnologia a fare lo stesso nostro servizio in una zona dove siamo già, e tecnicamente questo creerà grossi disagi sia a noi che a chi verrà, e soprattutto saranno soldi spesi male, perché noi ci siamo già qui da parecchio e stiamo dando una risposta a una domanda che è tanta e che c'è, però noi l'abbiamo fatto da soli e chi verrà lo farà con i soldi tra l'altro pubblici. Grazie Achille. Grazie Achille. Senta Quintarelli, secondo lei questo, gli esempio che ci proponeva Achille, deriva da cecità, ignoranza o deliberata volontà di ricostruire a volte già quello che c'è da parte del pubblico locale, comune, che deve risolvere il digital divide? C'è un po' di tutto, come al solito. C'è qualcuno che duplica infrastrutture esistenti sapendo che esistono. Nel caso di specie, che è molto diffuso, nel rapporto di Francesco Caio vengono citate tutta una serie di opzioni tecnologiche per poter colmare il digital divide. Una è quella che ha citato l'ascoltatore di massa, che si chiama Iperlan. Ebbene, in Iperlan è coperta gran parte dell'Italia e anche zone che ufficialmente sono in digital divide. Gli utenti stessi non lo sanno. A me è capitato che sul mio blog un signore di Torino mi ha detto: ah, qui stiamo organizzando una rivolta col sindaco per avere la DSL. Io sono andato sul sito di un paio di operatori che so che forniscono servizio wireless e ho detto: no, guarda che non sei in digital divide, ci sono questi due, ci sono paesi, tutto il paese evidentemente. Ecco, quello che manca è un censimento. Prima di procedere a un'operazione di finanziamento e riduzione del digital divide, e come correttamente poi individuato anche da Francesco Caio, bisogna sapere qual è la situazione attuale e quindi sapere quali zone sono effettivamente coperte con tecnologie diverse dalla DSL, perché ce ne sono molte, sono stati fatti con investimenti privati, il rischio è che entri il pubblico a sovvenzionare un operatore in concorrenza con i soldi pubblici di operatori privati. Ripeto, questa non è una cosa sporadica, ci sono tantissime zone in giro per l'Italia che sono coperte in Iperlan, e dare visibilità a questo, quindi raggiungeremmo un duplice scopo: il primo, quello di poter sapere effettivamente di mirare meglio gli investimenti, il secondo di dare un'informazione agli utenti che magari in una zona c'è un operatore che la serve e loro non lo sanno. Caio, per gli obiettivi 2 e 3, cioè quelli diciamo una cinquantina di capoluoghi italiani coperti, città italiane coperte, e poi per l'obiettivo 3 o 1, diciamo in ordine di importanza, cioè quello di tentare di addirittura badare alla di puntare a una primazia in Europa, cioè 100 città italiane coperte con infrastrutture di questo tipo, l'ammontare di capitale per lei che fa da anni questo mestiere e la remunerazione di questo capitale, lo rendono compatibile come sforzo finanziario con quello che capita oggi nel mondo attraversato dalla crisi o no? Ma lo si diceva prima, è molto difficile per un singolo gestore fare questo tipo di investimento non avendo visibilità sul fatto che ce ne possano essere altri, cioè obiettivamente questi ritorni, l'equazione torna se si fa una rete e si misura su tempi lunghi nell'ambito di un sistema regolatorio che garantisca una tariffa capace di coprire i costi. Questa è un po' la sintesi. Allora lì si tratta di capire quali sono le condizioni per cui questo accada. Quindi si può ipotizzare un ritorno anche molto interessante a 10 anni su un'infrastruttura piccola o grande, ma che sia in monopolio, ben regolata, su una zona territoriale definita? La risposta è sicuramente sì. Vedo oggi delle imprese private che si mettono a fare degli investimenti non sapendo qual è il sistema regolatorio che lo gestirà? Sicuramente no. E quindi la risposta, si torna alla regolazione. Abbiamo ancora una telefonata, poi non riusciremo a passarne altre. Massimiliano da Milano. Prego Massimiliano. Sì, buongiorno e grazie per la possibilità. Volevo chiedere al dottor Caio Io lavoro nel settore fibre ottiche, vendo strumentazioni di test per le fibre ottiche, quindi conosco un po' le tecnologie. In questo momento Telecom Italia sta sperimentando anche con noi fornitori la cosiddetta NGN2, New Generation Network 2, dove si sta sperimentando il Fiber to the Home o Fiber to the Building. Sì. Ecco, alla luce di tutti questi bei discorsi però tecnici, quindi noi stiamo lavorando con Telecom per la sperimentazione, però vista la premessa che giustamente ha fatto lei, che se Telecom però non ha le possibilità finanziarie di fare questi investimenti, lui come vede compatibili le due cose, che si sta facendo sperimentazione molto avanzata, ma poi ci sarà una fase concreta, volevo chiedere? Beh, insomma, diciamo che tutta la trasmissione è un po' volta a dare la risposta alla sua domanda. Io rigiro per le considerazioni finali a Caio e poi a Quintarelli. Prego, Caio. Ma il tema è che non è che non ci saranno investimenti in fibra, ci sono già, continuano, c'è questo network sharing agreement tra Fastweb e Telecom Italia, la rete avanzerà, il tema è la velocità e l'estensione con cui questa rete verrà fatta. Se non cambia il quadro generale, la velocità sarà molto lenta, mi spingo a dire più lenta che il resto dell'Europa. Quintarelli. Ma sono sicuramente d'accordo con Francesco Caio. Non è solo una questione di modalità di sviluppo, ma anche di tecnologie usate, di scelte tecnologiche. Cioè non è solamente il fatto di mettersi d'accordo per collaborare, occorrono dei monopoli locali. I monopoli locali possono essere fatti sia da società grandi che anche da società piccole, spesso quelle più piccole sono più vicine, il caso scandinavo citato prima. L'importante è avere un'idea tecnologica di base, perché tra tutte le alternative possibili bisogna sceglierne una e su quella fare sistema. Caio, l'impressione sua è che i paesi europei, che si stanno più o meno tutti ponendo questo problema, chi più e chi meno, ci sia una sensibilità nei tempi di decisione rispetto all'importanza delle ricadute che possono venire dal discorso che stiamo facendo diversa, oppure ci sia un ritardo equalmente distribuito oggi in Europa di fronte magari all'emergenza, disoccupazione o altri problemi della crisi che mordono di più, o lei vede qualcuno che ha capito di più che bisogna accelerare su questo? Guardi, io penso che più o meno siamo stati alla stessa linea di partenza tutti. Oggi io vedo gli scandinavi, gli inglesi e gli olandesi cambiare marcia. Quintarelli condivide, sì. Assolutamente condivido. Noi abbiamo, l'ho detto prima, cercando di portare la cosa in termini un po' più generali, abbiamo un modello di sviluppo che guarda agli anni 60. Cioè per noi, d'altronde, sono 10.000 anni che viviamo nel mondo fisico e solo 10 anni che viviamo quello della rivoluzione digitale. È chiaro che se io costruisco una casa, un ponte, una strada, genero poi un indotto di mobili, elettricisti, idraulici, eccetera. Se io adesso chiedessi a chiunque, se io metto giù una fibra che è indotto genero, non lo sa nessuno. Eppure questo è determinante, perché ricordavo prima, la produttività in termini di PIL delle persone che lavorano in questo settore è il 50% più alto che quello del resto dell'economia. Io credo che quest'ultimo punto, che è un po' anche filosofico, cioè sull'esclusività e l'indivisibilità del fisico rispetto al digitale, questo aiuta a capire spesso perché i politici sono un po' indietro nel capire la differenza. Comunque io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato oggi, temi un po' tecnici, ma ne dipende il futuro dei vostri figli e delle vostre imprese, anche quelle oggi che stentano un po', temo. Io ringrazio tutti, la linea del Giornale Radio.